Comunque oggi è il 15 dicembre e questa mattina mi sono svegliato abbastanza presto, prima dell'alba, e come al solito c'è un momento, mi accorgo, in cui improvvisamente si apre un tunnel di una visione limpida. Cioè vedo con chiarezza certe cose che di giorno non vedo. O intravedo, ma non vedo con altrettanta chiarezza. È il momento in cui arrivano le intuizioni che sono pulite. E c'è una leggenda dal Talmud che dice che quando un bambino nasce, un angelo si affretta a chiudergli uno spazio tra i due occhi, un terzo occhio, perché se vedesse il mondo da quell'occhio lì non vorrebbe viverci. Allora, passando dalla notte all'alba, è una nascita e in quella nascita si verifica un momento di apertura. In quel momento di apertura si possono vedere cose o molto belle o anche cose che possono far paura. Di solito a me capita di vedere cose che mi aiutano a indirizzare la vita. Anche nel campo del lavoro, per esempio, proprio avere intuizioni precise di cosa c'è da fare. E questa notte ho fatto un sogno, anzi ne ho fatti due. Il primo era un sogno abbastanza angosciante. C'era una persona, un ragazzo che mi si avvicinava, non lo conoscevo, poi c'erano anche degli altri, che mi si avvicinava e mi ripeteva: vedi, tu sei proprio magro, ma proprio magro. E me lo diceva con, non saprei dire, con una certa insistenza. E siccome me l'aveva detto tante altre volte, a un certo punto io ho detto: che cosa vuoi da me? Cioè, per quale ragione mi dici questo? Lui continua: no, perché tu sei proprio così. Lo usava con una forte critica, una cara. Allora cercavo di parlargli, ma questo era totalmente chiuso. E non so come, ho convinto altri due a tenerlo fermo. A tenerlo bello fermo, guardarlo negli occhi e dice: adesso mi devi dire qual è lo scopo per cui dici tutto questo. E a questo punto lui si è fermato e si è messo a piangere. Non lo sapeva. Il suo scopo, tutto sommato, era uno scopo molto comune tra gli esseri umani, che è quello di far del male. Poi ho fatto un altro sogno. In questo sogno avevo ripreso a suonare il violoncello e mi accorgevo che potevo fare tutta una serie di passaggi armonici con due corde che riportavano sul violoncello tutto quello che sto facendo adesso sul pianoforte, cioè ero in grado di trasferire sul violoncello le competenze armoniche che ho acquisito e mi dava una gioia infinita tutto questo. E dicevo: è ciò che io voglio nella vita, è questo. Ero totalmente libero. Ogni movimento corrispondeva a un suono e c'era una perfetta sintonia tra il movimento e il suono, tra lo stato d'animo e il suono. Ma poi è arrivata un'angoscia molto forte perché mi ha detto: ma tu non ce la puoi più fare, perché sei vecchio ma non ce la fai più. E una voce dentro di me ha detto: ma io ho ancora le mani, funzionano. E lì mi sono svegliato. Mi sono svegliato con una forte tensione. Questi due sogni hanno a che fare con lavori che stiamo facendo in questi giorni, quando vi faccio fare il lavoro sul copione di vita, sulle condizioni di amabilità, tutte queste cose. È chiaro che anch'io le faccio su di me. E questo, guardo un attimo i punti, sì, questo, sì. Ecco, che cosa è stato? Qual è il simbolo del suonare il violoncello in quel modo e dell'angoscia che ne viene? Beh, è l'angoscia che viene dall'aver la consapevolezza, per un certo verso, di aver tradito totalmente la propria mission. La mia mission era chiarissima, 3 anni. E dopo l'ho persa per la strada. Sono ancora oggi fuori strada, mi ci sto avvicinando ogni giorno. Sono come un esploratore che veramente ha perso la strada nella foresta, si è allontanato in mezzo a una giungla infernale, però so che mi sto avvicinando, lo so perché riconosco una montagna da cui sono partito, la vedo anche in mezzo agli alberi, so che mi sto avvicinando, così tre volte sono nella direzione giusta, non lo so sbagliato. com'è che ho potuto perdere così tanto la strada? Beh, è certamente perché mi sono indebolito. Perché uno che ha una mission, che segue quella, un pesce deve fare il pesce, è un uomo. Gli uomini sono diversi tra loro, non meno di quanto un pesce è diverso da un gatto. C'è un pesce che sta nell'acqua, il gatto salta, ma c'è un uomo che gli piace l'acqua, un altro uomo che la detesta. Cioè, gli uomini sono diversissimi gli uni dagli altri, non si assomigliano quasi per certi aspetti. Fisicamente hanno qualche somiglianza, per quanto riguarda quello che hanno dentro, beh, lì il mondo sono molto differenti. Bene, io mi sono perso perché a un certo punto sono come un uccelletto che è uscito dal nido perché in qualche modo doveva uscire e si è spezzato un'ala e quindi è rimasto sulla terra. Ora, un uccelletto sulla terra è un animale debolissimo, qualunque predatore lo fa fuori. E quindi per un lungo periodo della mia vita io mi sono sentito come un uccelletto con un'ala spezzata e con dei predatori, cioè che quindi dovevo in qualche modo guardarmi. Com'è che mi sono spezzato un'arma e sono uscito dal nido così presto, da un certo punto di vista? Ma perché il nido era occupato. E io non ho fratelli, com'è? Da chi era occupato? Ma è abbastanza semplice, occupato da un altro maschio che era mio papà. Mio papà non era un maschio adulto, era un adolescente. E quando sono entrato in quella famiglia, ero di troppo, per lui sicuramente. Infatti lui mi ha sempre detto, quando parlava di figlio, oh, per carità, di qualità, beh, non capivo, perché io ho un figlio che non gli ha mai dato grandi problemi e lui mi voleva bene. Però in qualche modo è evidente che gli scappava questa frase come per dire, guarda che quando nasce un figlio l'amore della donna non ce l'hai più, insomma. E lui era in qualche modo ancora nella fase non di adulto genitore, ma era ancora una fase quasi infantile, quindi in qualche modo, e beh, questo non sto a prolungarmi su questo. Che cosa significa quando se un padre fa così? Che d'altra parte mio padre mi ha molto voluto molto bene come prolungamento di sé, però è come non dovresti esistere. Cioè. È da lì che ho riconosciuto con molta chiarezza il perché. Io in qualche modo ogni tanto da bambino pensavo che non ci doveva essere, insomma, poco da fare. E questo ormai clinicamente so bene da dove viene, e in questo sogno mi è tornato fortissima questa cosa. Allora, quando non c'è il diritto di esistere, come sappiamo, il bambino trova delle escamotage. L'escamotage, la prima è compiacere, andare contro l'altro, come dire, se faccio proprio quello che vuoi, magari posso esistere. Fare proprio quello che voleva mio padre era abbastanza evidente, dovevo fare quello che gli piaceva a lui. Ora io ero molto portato per alcune cose, tra cui la meccanica, la matematica, queste cose qui. Mi venivano, era la mia natura. Mio zio ingegnere, uno che aveva 10 di matematica, anche io andavo bene, cioè non avevo problemi. In quel settore, studiare fisica per me è stata la cosa più semplice della terra. Quando ho fatto economia politica, dove c'era un po' di matematica, cosa, per me è stata una passeggiata. Tutto ciò che aveva a che fare con le materie umanistiche per me è una grande fatica, perché non ho il cervello adatto, c'è poco da fare, non è cablato giusto. Ecco. Ma mio padre cosa voleva? Che io facessi il musicista. Bene, in effetti io avevo un talento in quella direzione lì, l'avevo sentito. Però lui metteva su di me un'aspettativa, io dovevo eccellere. Ora, se c'è qualcosa di terribile per un bambino è dover eccellere, perché allora devi diventare speciale. E se devi diventare speciale sei isolato e se ti isoli sei solo, come ovvio, e questo ti porta a deformare tutta la realtà. Quindi, diciamo così, ho ricevuto un tradimento dal copione di mio padre, non certo dalla sua anima. Allora, una delle cose che facciamo quando ci siamo traditi è riprodurre il tradimento. E se io sono tradito, tradisco. In primo luogo chi? Me stesso, è ovvio. E quindi quando cominciamo a tradire noi stessi perdiamo l'innocenza. Cioè l'innocenza è colui che non nuoce, e da bambini siamo innocenti. Poi dopo cominciamo a nuocere su chi? È su chi abbiamo più vicino, cioè su noi stessi. E all'inizio le autocostrizioni, le contrazioni e la creazione di una sorta di prigione, no? Io ho fatto molte volte il sogno di alzarmi in volo per liberarmi dalla terra dove ero. E trovavo dei fili sopra, i fili della luce, che mi impedivano di salire via. Ok. E chi è prigioniero, si chiama, in latino si chiama captivus, captivus diventa cattivo, se non altro, nei propri confronti. Ok. E facilmente anche nei confronti delle persone che ama, naturalmente. Bene. Durante la mia vita ho avuto molte volte momenti di risveglio, no? Mi accorgevo di essere dentro una prigione, avrei voluto appunto uscirne. Sentivo un campo dismorfico e sentivo che ovunque c'era un tentativo di bloccare l'energia vitale, non solo la mia, anche quella degli altri. Infatti, quando mi confidavo con alcune persone almeno, sentivo la loro tendenza a portarmi verso il conformismo. Dice, ma vabbè, ma cioè, queste ce l'hanno tutti, cioè, certo, sono cose che è chiaro che uno vuol fare certe cose e non le può fare, bisogna adattarsi, bisogna e così via. Ecco, per cui puoi comprendere quanto io amo Krishnamurti nel momento che dice bisogna dell'insoddisfazione fare la nostra molla creatrice. Cioè la spinta viene dall'insoddisfazione, se sei soddisfatto di questo mondo in cui vigono le ingiustizie che ci sono, beh, sei già morto. Ecco, quindi l'insoddisfazione va bene, basta che non sia lamentosa, che sia poi un'insoddisfazione creativa. Io avevo un io governo confuso allora, perché da una parte mi conformavo, dall'altra mantenevo degli spazi aperti di sogno, liberazione, futuro. Su questo ho fruito tante cose, la montagna, la musica, e così via. Ecco. Questo senso di isolamento che avevo dentro mi portava però appunto a identificarmi, per esempio, una poesia come il passero solitario, insomma, no? Questo è un esempio proprio forte di isolamento. Sentire come la comunicazione sia difficile, che gli altri uccelli contenti per lo libero ciel fanno mille voli. E te, solinga uccellin, venuta sera del vivere che a te daranno le stelle, vabbè, tu sei contento, ma io no, perché no? Perché io sono un essere umano, io sono libero di poter cambiare, tu no, è la tua natura, dice Leopardi. No? Ecco, quindi se non cambiamo e se rimaniamo in quello stato, c'è anche un senso di colpa intrinseco, c'è qualcosa che non va, non c'è solo, c'è proprio morale, etica, non va bene. Ecco. Bene, la musica, naturalmente presa con questo impianto mentale, mi ha portato al perfezionismo, mi ha portato a dover eccellere. Ecco, fortunatamente ho mantenuto all'interno della musica degli spazi sempre di improvvisazione musicale, non i luoghi del sogno, lì viaggiavo libero, l'ho sempre fatto. Poi sono arrivati i primi innamoramenti, tra l'altro la mia compagna, la sorella del mio compagno con cui studiavo sempre, insomma all'inizio non tirava particolarmente, dopo un pochino invece sì. E sono rimasto, anche lei era, ci avevamo un bello scambio, poi io in qualche modo mi sono proprio chiuso, ho capito subito, cioè, dopo ho proprio generato una barriera tale, creandomi un valico, proprio, io vivevo nel passero solitario, punto e basta, e ho vissuto lì. Da quel periodo ho cominciato a soffrire di fegato, cioè la mia cistifellea ha cominciato a non fiorire perché sentivo il rifiuto che generavo io nei confronti del mondo, mi faceva specchio il mondo, e quindi sentivo il rifiuto, e quindi mi veniva la rabbia, mi sentivo impotente, lì hanno cominciato i miei annebbiamenti mentali, e la mia luccia che si cominciava a rimettersi in sesto, tao, ha proprio preso una botta che non voleva più, e questa me la sono tenuta spezzata per parecchi anni. Quindi ho abitato in un campo così, ecco perché oggi quando vedo tante persone che sono sofferenti, le vedo con una certa predisposizione alla ottimistica, voglio dire, si esce da queste cose. Basta vederle. Finché ci sei dentro sembrano reali e vere. Quando ti accorgi che sono solo dei film e che puoi uscire dalla stanza del cinema, puoi uscire dalla sala cinematografica e tornare all'aria aperta, anche se è stato un incubo, hai visto un film dell'orrore, ma dopo fuori c'è la luce del sole, insomma. Oppure ci sono i lampioni della notte, ma insomma, poi il giorno dopo c'è di nuovo il sole. Che cosa è successo col perfezionismo? Che il perfezionismo è un'antitesi, è un ostacolo che blocca il corpo. A un certo punto diventa una contrazione. mi ha impedito proprio di lasciare, di fluire nel campo musicale, per cui 2 giorni cominciava a decollare, il terzo giorno avevo un blocco, una groga, e quindi ho sentito fermarsi tutte le strade davanti a me. Mi sono trovato a giurisprudenza che non era il mio campo, anzi il campo più verosimile, lontano dalla mia natura, che possa esistere sul pianeta, e però avevo degli amici fantastici. Ecco, questo mi ha consentito di andare avanti. Poi ho fatto un incontro sentimentale che mi ha scosso totalmente, perché è una persona con la quale c'era una grande intesa, avevamo tutti interessi comuni, e lei mi ha tirato giù tutte le maschere, cioè, mi ha messo in croce. C'è stato un momento che proprio veramente non ne potevo più, ma sono entrato in una conflittualità spaventosa. Però lì è nato qualcosa, cioè lì ho cominciato il periodo di liberazione. Da lì e sono ritornato, avevo interrotto gli studi musicali, ho ripreso gli studi musicali, ho ripreso l'improvvisazione musicale, ho incontrato Boris Frena. E cosa c'è stato di meraviglioso in questo incontro? Intanto la figura di Boris, che tutti quelli che lo conoscono sanno di cosa parlo, è un uomo straordinario, un'umanità che è rarissimo incontrare. E poi Boris, che era un compositore dei più importanti che c'erano in Italia, ha legittimato, cioè, come mi avesse detto, quello che stai facendo è ok. Cioè, io stavo facendo improvvisazione musicale che era criticato ovunque, non aveva nessun senso da nessuna parte, mentre lui ha detto: ma questa è un'attività assolutamente degna del massimo interesse. Per cui mi sono sentito liberato da un senso di oppressione che avevo in tutto intorno, da persone che non capivano cosa facevo e così via. E devo dire che attraverso l'improvvisazione sono pian pianino uscito dalla prigione, perché l'improvvisazione è l'antitesi del controllo. Controllo cosa vuol dire? Viene da role in francese, che vuol dire registro, e registro o procedura in cui si indicano i nomi delle persone, oppure una procedura da seguire. Contro role è un altro registro, cioè si fa un altro registro per verificare che il primo sia corretto. Quindi 2 registri. Che in campo contabile può essere utile, no? Prendo nota 2 volte delle cose, così faccio una controprova. In piccola misura è utile nella vita, in grande misura paralizza ogni attività, blocca tutta l'energia, blocca il sogno. Bene, l'improvvisazione è proprio l'opposto di questo, toglie il controllo, non puoi improvvisare se controlli. E quindi io mi ricordo bene che non ero io a improvvisare, l'improvvisazione attraversava me. È un'esperienza tipo Zen questa, ed è talmente magica che poi ho proseguito tutta la vita a cercare quel tipo di sensazione lì. Poi, naturalmente, attraverso la musicoterapia, gli studi che ho fatto successivamente, poi sono approdato alla psicologia, e la psicologia, come ben noto, ha una parte di anima e una parte di copione. La parte di anima serve proprio a liberare le persone, la parte di copione, come giurisprudenza, la stessa cosa. Cioè, anche lì, o come la musica fatta in modo oppressivo, si verificano sempre le stesse cose. Ora, incontro con Carolina. E ricordo benissimo che la prima volta che poi siamo usciti insieme, eravamo in barca, io stavo guidando la barca e lei era seduta lì per terra, e io, tenendo la mano, il braccio attorno alle sue spalle, guardavo davanti. E per la prima volta ho visto un futuro con una persona con la quale stavo, per la prima volta, perché fino allora non avevo avuto compagni con cui intravedevo un futuro. Cioè, no. È come se fosse stata una compagna, ho detto: questa può essere una compagna di vita. E di lì a poco siamo andati a vivere insieme, e da lì è iniziata una grande avventura. Tutte e due siamo 2 persone avventurose. Lei veniva dall'Africa, dove aveva abitato tanti anni, era italiano ovviamente, era di Genova, aveva vissuto in Africa ed era aperta a tutte le esperienze, e molto libera. E la prima cosa che gli ho chiesto quando siamo tornati a casa quella sera, se era una persona indipendente, perché per me era molto importante sapere se io potevo proseguire la mia ricerca. La mia ricerca era già definita, cioè era una ricerca nel mondo della musica, della musicoterapia, della psicologia, cioè c'era tutto un mondo che volevo esplorare, perché serviva a liberarmi dal mio passato completamente e faceva parte ormai della mia mission, liberare più persone possibili. Sì, lei mi ha risposto sì, che era libera. E così le nostre strade hanno cominciato a andare insieme. E per molti anni abbiamo effettivamente viaggiato insieme molto bene, vicini, abbiamo fatto tante cose, naturalmente con tutte le difficoltà che ogni coppia ha. Abbiamo creato poi insieme un figlio, che non è un figlio in carne ed ossa, ma è un figlio molte carni, molte ossa, che sono tutti i nostri compagni, allievi, collaboratori. Ed è un figlio che, da un certo punto di vista, è un grande sogno che si sta realizzando. E naturalmente noi, come genitori, abbiamo i nostri problemi. Cioè, perché ognuno di noi non condivide esattamente il progetto dell'altro. Aleph è figlio di tutte e due, però in qualche modo sento che Carolina ha bisogno di riprendere il giro del mondo. Proprio in questi giorni a casa nostra, in questi mesi, è tornato in Italia un carissimo amico, Attilio, col quale viviamo insieme, e sento la similitudine che c'è tra Carolina e Attilio. Sono tutte e due viaggiatori, ce l'hanno nel sangue. E loro hanno bisogno di viaggiare, come un uccello ha bisogno di volare, e come io ho bisogno di esplorare certi mondi, che non, per me non è importante lo spostamento spaziale, per me è importante lo spostamento dell'anima nei diversi campi. E quindi con questo sogno di stanotte ho sentito fortissima l'impulso a dire 25 aprile, siamo liberi. Attenzione a non crearci le barriere. Io voglio essere un liberatore, non un oppressore. Io non voglio liberare un paese per creare un'oppressione ulteriore dopo, come hanno fatto tutti i paesi. Di solito un paese, quando ne libera un altro, poi ci mette le sue zampe dentro. No, non voglio fare questo. Io voglio essere una persona che, se può, libera altri paesi perché siano liberi. E in questo modo libero me, insomma. Ecco. E quindi adesso è la grande sfida che ci aspetta, perché non sappiamo cosa accadrà. Cosa accadrà ad Aleph? Probabilmente Aleph è già più adolescente, verso l'età adulta, probabilmente sta già andando, viaggiando per conto suo. Io sento la forte esigenza di tornare alle mie radici, che non sono quelle psicologiche, sono quelle musicali. So che questo è il settore che mi dà massimo, dove mi sento a casa mia. Ecco, negli altri settori sono ospite, sono sempre ospite. Sono ospite della PNL, sono ospite dell'analisi transazionale, sono ospite, cioè non è roba mia, insomma. In parte sì, quando entriamo nel mondo della qualità dell'essere ha cominciato a diventare casa mia, ma è sempre una casa recente, dove veramente abito da tanto tempo il mondo della musica. Io vedo le relazioni umane come le relazioni tra strumenti musicali. Le vedo con quella stessa ottica, vedo le persone se stanno suonando lo stesso brano, se suonano brani diversi, se stanno facendo, accordando gli strumenti, come si fa le prove d'orchestra, in cui si verifica solo un caos musicale. Vedendo il mondo così, sono interessato a portare questa caratteristica. E quindi il mio sogno, lo dico come sogno di fine anno, siamo 23, 20, oggi ne abbiamo 15, vabbè, a metà mese di dicembre siamo quasi alla fine. Come sogno di fine anno, per l'anno prossimo, proprio questo intento. Per quanto è possibile, per quanto mi riguarda, creare dei contesti dove si possa suonare la vita e danzare la vita, in cui ogni persona si senta veramente libera. Se ha voglia di fare una cosa, la fa, se non ha voglia di fare, non la fa, però lo dice anche. Ecco, questo che chiederei a tutte le persone che mi stanno intorno, di dirmi veramente se una cosa la vogliono fare oppure no, e che non facciano mai nessuna cosa perché sentono che hanno dovere di farla. Ricordiamoci sempre che tutte le volte che c'è un dovere, vuol dire che c'è una parte positiva, la quale prima o poi la farà pagare, sia la persona che si assume il dovere, sia tutte le persone intorno. Quindi vorrei che questa casa, se ci sarà una casa o un centro, quello che è, sia una casa libera, dove si entra e si esce. Se ci si sta è perché si vuol stare, se non ci si sta, sia pure vuota sta casa, che non ci stia nessuno. Perché se allora lì ci abiterà la libertà, e se c'è la libertà ci abiterà l'amore, ma senza amore, senza libertà l'amore non può esistere. E questo è il mio augurio, che ciascuna persona possa trovare questa forza nella vita, perché spesso sfuggiamo alla libertà perché abbiamo paura. E la paura di cosa? Di perdere la sicurezza, di perdere il contatto, ma senza il coraggio di vincere queste paure, tutto sommato infantili, non è possibile conoscere il vero amore. Il vero amore è il contatto con tutto ciò che c'è, è il senso di solitudine e di isolamento, è la più grande illusione che un essere umano può avere. E con questo vi saluto tutti.